In linea generale, questo voglio essere ben chiaro, sono favorevole alla Tobin Tax, intesa come una tassazione sulle transazioni finanziarie, che però deve avere la caratteristica della globalità, cioè io non credo assolutamente che si possa applicare se non è globale, soprattutto nella sua applicazione. Quindi in teoria sono d'accordo, un granello di sabbia negli ingranaggi di una finanza ipertrofica, secondo me è giusto, però deve essere globale. Così come è impostata, non è globale e secondo me crea solo dei problemi ai mercati. Quando viene applicata, beh, bisogna aspettare il Quindi decreto intanto abbiamo ancora una attuativo, situazione sì, grigia. perché adesso la legge prevede, diciamo, la tassazione dello 0,05% sul valore della transazione per quanto riguarda le azioni. Per quanto riguarda invece i derivati e il nozionale, sono esclusi i titoli di Stato. Si discute, per esempio, sul fatto che quando deve essere, diciamo, applicata, credo che gli intermediari saranno il sostituto di imposta, e penso che ci siano tavolo di diverse discussioni, perché per esempio si sta discutendo del fatto di modificare l'aliquota a seconda del prodotto finanziario, cioè si parla di una differenziazione per quanto riguarda i derivati, per quanto riguarda le azioni. Tu mi hai chiesto quale può essere un problema. Beh, un problema indirettamente può essere dettato dal fatto che, mancando la globalità, è molto probabile che ci sia un deflusso di flussi finanziari dai mercati che la applicano, non solo a causa, per esempio, del fatto che, non so, grandi piazze finanziarie come quelle della City siano esenti, e quindi potrebbe esserci questa riduzione di liquidità sul mercato, ma anche perché io credo che questa legge sia stata pensata un po' troppo con riferimento a mercati che non esistono più. Cioè, adesso i mercati sono complessi, ne abbiamo già parlato, e basta pensare alle trading venues, per esempio, ai mercati alternativi. Lì sarà più difficile individuare i soggetti. Io credo che ci sarà un andarsene della liquidità verso quei determinati mercati un po' più opachi, più oscuri, e il singolo risparmiatore, come tu chiedevi, cosa potrebbe avere da pagare? Al di là del balzello, come verrà individuato precisamente, avrà da pagare un balzello indiretto, che sarà l'allargarsi della differenza tra l'offerta di acquisto e l'offerta di Vendita. vendita. Quindi lo spread denaro lettera, secondo me, con grandi probabilità si allargherà, e questo è un costo implicito che un piccolo risparmiatore deve tener conto, perché magari vuole vendere a un prezzo e non trova quella corrispondenza di quel prezzo, perché la liquidità, secondo me, potrebbe diminuire.